certo il mio goder, fa bello il mio piacere, e tutto il mio temor, e tutto il mio temor. Un placido sen, mi va scherzando.